I giorni che precedettero il pranzo con Madame de Stermaria non mi riuscirono deliziosi ma insopportabili. Il fatto è che, in generale, più il tempo che ci separa da quanto ci prefiggiamo è breve e più ci sembra lungo, o perché gli applichiamo misure più brevi o semplicemente perché ci preoccupiamo di misurarlo. Il papato, dicono, conta per secoli e forse non si cura nemmeno di contare perché il suo scopo è all'infinito. Il mio era a distanza di appena 3 giorni, contavo per secondi, mi abbandonavo a fantasie che sono già inizi di carezze, carezze che ci si dispera di non poter far concludere, e proprio quelle carezze, ad esclusione di ogni altra, dalla donna medesima. Insomma, se è generalmente vero che la difficoltà di raggiungere l'oggetto di un desiderio accresce il desiderio, la difficoltà, non l'impossibilità che invece lo sopprime, tuttavia, trattandosi di un desiderio puramente fisico, la certezza che esso verrà realizzato in un momento prossimo e determinato non è meno esaltante, o quasi, della stessa incertezza. Non molto diversamente dal dubbio ansioso, l'assenza di ogni dubbio rende intollerabile l'attesa del piacere infallibile, giacché fa di tale attesa una realizzazione innumerevole e, con la frequenza delle rappresentazioni anticipate, divide il tempo in sezioni minutissime, come farebbe l'angoscia. Ciò di cui avevo bisogno era possedere Madame de Stermaria. Da parecchi giorni, con attività incessante, i miei desideri avevano preparato quel piacere nella mia immaginazione, e quello soltanto. Un altro piacere, il piacere con un'altra donna, non sarebbe stato pronto, giacché il piacere non è che la realizzazione di una voglia preliminare, e questa voglia non è sempre la stessa, ma cambia secondo le mille combinazioni del sogno, i casi del ricordo, lo stato del temperamento, l'ordine di disponibilità dei desideri, fra i quali quelli che sono stati soddisfatti per ultimi rimangono a riposo finché non si sia un po' dissolta nel ricordo la delusione del compimento. Avevo lasciato ormai la strada maestra dei desideri generali e avevo imboccato il sentiero di uno più particolare. Sarebbe stato necessario, per desiderare un altro incontro, percorrere un troppo lungo tratto a ritroso sino a recuperare la strada maestra e prendere un altro sentiero. Possedere Madame de Stermaria nell'isola del Bois de Boulogne, dove l'avevo invitata a pranzo. Questo era il piacere che immaginavo ad ogni istante. Sarebbe andato in frantumi, naturalmente, se avessi pranzato in quell'isola senza di lei, ma sarebbe alquanto scemato, forse, se avessi pranzato, sia pure con lei, altrove. Del resto, gli atteggiamenti secondo i quali ci si figura un piacere sono anteriori alla donna, al genere di donna che ad esso si addice. Sono loro che stabiliscono sia il genere di donna che il luogo, e per questo fanno via via tornare nel nostro capriccioso pensiero quella donna, quel paesaggio, quella camera che in altre settimane avremmo disdegnati. Figlie dell'atteggiamento, quelle certe donne non possono essere disgiunte dal grande letto in cui troviamo pace al loro fianco, e altre, per essere accarezzate con un'intenzione più segreta, richiedono foglie al vento, acque nella notte, sono altrettanto lievi e fuggitive. Già molto tempo prima, certo, della lettera di Saint-Lieu, e quando ancora non era questione di Madame de Stermaria, l'isola del Bois mi era parsa fatta per il piacere, perché mi era capitato d'andarci ad assaporare la tristezza di non averne alcuno che essa potesse accogliere. Sulle rive del lago che conducono a quell'isola e lungo le quali, nelle ultime settimane d'estate, vanno a passeggiare le parigine che non sono ancora partite, vaghiamo, non sapendo più dove trovarla, ignorando persino se abbia già lasciato Parigi, con la speranza di veder passare la fanciulla di cui ci siamo innamorati all'ultimo ballo della stagione, che non potremo più incontrare a nessuna festa prima della prossima primavera, sentendoci alla vigilia, forse anche all'indomani della partenza dell'essere amato, percorriamo sull'orlo dell'acqua rabbrividente i bei viali dove già una prima foglia rossa fiorisce come un'ultima rosa. Scrutiamo l'orizzonte dove, per un artificio inverso a quello di quei panorami sotto la cui cupola i personaggi di cera in primo piano danno alla tela dipinta dello sfondo un'apparenza illusoria di profondità e di volume, i nostri occhi, passando senza transizione dal parco coltivato alle alture naturali di Médion e di Mont Valérien, non sanno dove porre un confine e inseriscono la vera campagna nell'opera di giardinaggio, il cui fascino artificiale proiettano ben al di là di quanto le compete. Analogamente, gli uccelli rari allevati in libertà in un orto botanico vanno ogni giorno, a seconda delle loro aeree passeggiate, a portare una nota esotica fin nei boschi limitrofi. Fra l'ultima festa dell'estate e l'esilio dell'inverno, percorriamo ansiosamente il reame romanzesco degli incontri incerti e delle malinconie amorose, e non saremmo più stupiti di scoprire che esso è situato al di fuori dell'universo geografico di quanto lo saremmo a Versailles se in cima alla terrazza, osservatorio attorno al quale le nubi s'accumulano contro il cielo azzurro nello stile di Van der Mühlen, dopo esserci tanto elevati fuori della natura, venissimo a sapere che là, dove essa ricomincia, in fondo al Gran Canale, all'orizzonte che scintilla come il mare, i villaggi che non riusciamo a distinguere si chiamano Fleurus Onimega. E quando l'ultima carrozza è passata, quando sentiamo con dolore che lei non verrà più, andiamo a pranzare nell'isola, sopra i tremuli pioppi che richiamano indefinitamente, piuttosto che dar loro una risposta, i misteri della sera, una nuvola rosa mette un ultimo colore di vita nel cielo placato. Qualche goccia di pioggia cade senza rumore sull'acqua antica, ma rimasta sempre, nella sua divina infanzia, dello stesso colore del tempo e pronta in qualunque momento a dimenticare le immagini delle nuvole e dei fiori. E dopo che i gerani, intensificando la luminosità delle loro tinte, hanno lottato invano contro l'incupirsi del crepuscolo, una bruma scende ad avvolgere l'isola che si addormenta. Camminiamo nell'umida oscurità lungo l'acqua, dove al massimo ci sorprende il passaggio silenzioso di un cigno, come in un letto notturno, gli occhi per un attimo spalancati e il sorriso di un fanciullo che credevamo addormentato. Ancor più, allora, vorremmo un'innamorata accanto a noi, perché ci sentiamo soli e possiamo crederci in un luogo remoto. Ma quanto più felice sarei stato di portare Madame d'Estermaria in quell'isola dove persino d'estate spesso c'è un po' di nebbia, ora che era sopraggiunta la cattiva stagione, la fine dell'autunno. Se il tempo che era cominciato domenica non fosse bastato da solo a rendere grigi e marittimi i paesi nei quali dimorava la mia fantasia, così come altre stagioni li rendevano profumati, luminosi, italiani, la speranza di possedere, fra qualche giorno, Madame d'Estermaria sarebbe stata sufficiente a innalzare 20 volte all'ora una cortina di bruma nella mia immaginazione monotona e nostalgica. In ogni caso, la nebbia che sin dal giorno prima era calata anche su Parigi non solo mi faceva pensare di continuo al paese natale della giovane donna che avevo invitata, ma, poiché era probabile che, di sera, dovesse invadere il Bois, soprattutto in riva al lago e ben più fitta che in città, ero persuaso che, in qualche modo, avrebbe fatto per me dell'isola dei cigni l'isola della Bretagna, la cui atmosfera marittima e brumosa aveva sempre avvolto come un abito nella mia mente la pallida figura di Madame de Stermaria. Certo, quando si è giovani, all'età che avevo ai tempi delle mie passeggiate dalla parte di Meseglise, il nostro desiderio, la nostra convinzione, conferiscono all'abito di una donna una particolarità individuale, un'irriducibile essenza. Si insegue la realtà, ma a forza di lasciarsela scappare, si finisce col notare che, al di là di tutti i vani tentativi in fondo ai quali si è trovato il nulla, qualcosa di solido è rimasto. Ed è quello che si cercava. Si comincia a distinguere, a conoscere ciò che si ama, ci si sforza di procurarselo, magari a prezzo di un artificio. Allora, in mancanza della convinzione scomparsa, l'abbigliamento ne costituisce il surrogato per mezzo di un'illusione volontaria. Sapevo che non avrei trovato la Bretagna a mezz'ora da casa, ma passeggiando, avvinto a Madame de Stermaria, nelle tenebre dell'isola, in riva all'acqua, avrei fatto come chi, non potendo penetrare in un convento, perlomeno, prima di possedere una donna, la fa vestire da monaca. Potevo persino coltivare la speranza di ascoltare assieme a lei qualche sciabordio d'onde, dal momento che, il giorno prima del pranzo, si scatenò un temporale. Avevo cominciato a radermi per andare sull'isola a prenotare una saletta, sebbene in quel periodo dell'anno l'isola fosse deserta e il ristorante vuoto, e fissare il menù per il pranzo dell'indomani, quando Françoise venne ad annunciare Albertine. Feci entrare subito, senza curarmi che mi vedesse imbruttito da un mento ombreggiato di nero, colei per la quale, a Balbec, mi sembrava di non essere mai abbastanza bello, e che mi era costata allora tanta inquietudine e tanta pena quante adesso Madame de Stermaria. Mi premeva che la mia invitata ricevesse la migliore impressione possibile dalla serata dell'indomani. Chiesi dunque ad Albertine d'accompagnarmi subito all'isola per aiutarmi a scegliere il menù. La donna alla quale si dà tutto è così rapidamente sostituita da un'altra che noi stessi ci stupiamo di dare quanto abbiamo di nuovo, ora dopo ora, senza speranza di futuro. Alla mia proposta, il viso di Albertine, sorridente e rosato sotto un cappellino piatto e rotondo che le scendeva giù fino agli occhi, parve esitare. Doveva avere altri progetti. In ogni caso, me li sacrificò docilmente. Con mia grande soddisfazione, giacché attribuivo molta importanza ad avere al mio fianco una giovane casalinga capace, senz'altro, di ordinare il pranzo meglio di me. È un fatto che Albertine aveva rappresentato per me a Balbec tutt'altra cosa. Ma la nostra intimità, anche quando sul momento non la giudichiamo abbastanza stretta, con una donna di cui siamo innamorati, crea fra lei e noi, malgrado le carenze che ci fanno intanto soffrire, dei legami sociali destinati a sopravvivere al nostro amore e persino al ricordo del nostro amore. Allora, a proposito di colei che non è più, per noi, che uno strumento e un passaggio verso altre donne, ci sorprende e ci diverte a prendere dalla nostra memoria ciò che il suo nome ha significato d'originale per la diversa persona che siamo stati in passato, esattamente come quando, dopo aver gridato a un cocchiere un indirizzo, Boulevard des Capucines o Rue du Bac, senza pensare ad altro che alla persona a cui andiamo a far visita, ci rendiamo conto che quei nomi sono stati, un tempo, quello delle suore cappuccine il cui convento sorgeva nella zona o quello del traghetto che attraversava la Senna.